Ieri i mercati hanno pattinato su ghiaccio sottile, complice anche la chiusura di Wall Street, e il bagno gelato non si è fatto attendere. Dobbiamo attenderci altre cadute? Il crollo è stato generale nei settori e nelle latitudini, ma è proprio questa indiscriminata debolezza a far pensare che il ridimensionamento dei prezzi abbia più il sapore di una correzione che di un afflosciamento. A differenza di quel che successe nel 2000, oggi non c'è una bolla da sgonfiare, non ci sono state pazzie nei rapporti prezzi-utili e soprattutto il mondo ha più poli di crescita e meno USA dipendente. L'Europa è fragile ma non sclerotica e in Asia la domanda interna dà a quel continente un'autonoma capacità di crescita. E nei mercati non c'è solo chi vende, c'è anche chi compra. Le mani forti sono oggi quelle dei fondi sovrani, ma non solo. La Bank of America ha comprato Countrywide, il fondo pensioni del New Jersey ha investito in Merrill Lynch. I prezzi bassi, insomma, attireranno più compratori, proprio perché non c'è una bolla da smaltire.